ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it. A livello come mentale, se non hai la forza mentale, cade. Uguale, quindi la stasera dipende tutto. Sì, dalla testa, infatti. A livello mentale alto. Domani dormo tutto il giorno, perché le energie, siccome si consumo stasera, neanche nella finale di Champions sono fatte. Vabbè, dai. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Prima dentro, casa martello e andiamo! È partito alla grandissima Jack Miller che va a mettere le sue ruote sfruttando la grande accelerazione della Ducati. Davanti a Maverick Vinales, a Fabio Quartararo, viene fuori anche Pecco Bagnaia in quarta posizione. Ha azzeccato una buona partenza Valentino Rossi che si trova lì all'interno. Intanto qua Quartararo ha provato a passare. Ah, Valentino terra! Valentino caduto! Valentino caduto! Caduto! Grande scivolata, grande chiusura di avanfreno per Valentino Rossi. Questo weekend per Dovi è stato una salita che non si fa neanche con i ramponi. No! No! È Pecco! No! È Pecco! No! No! No! Mannaggia, mannaggia! È Pecco nel ghiaione! Ci siamo! Vinales c'è! Stavolta ce l'ha fatta! Ce l'ha fatta! Ci ha tappato la bocca a tutti, vince! Davanti a Mir, a Fabio Quartararo, a Pol Espargaró in quarta posizione, che però gli passerà davanti! Quindi Pol Espargaró è terzo, KTM di nuovo sul podio, poi Oliveira, Nakagami, Marquez, Dovizioso ottavo, nono Morbidelli. Beh, eccoci qui, bentrovati a tutti, 800 24 00 24, numero verde per intervenire in diretta fino alle 19, vi invito a prenotarvi già adesso, tema libero, perché partiamo dalle moto, parleremo anche ad esempio del tennis e del Tour de France. E poi avremo un'ampia pagina calcistica a poche ore dal debutto di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus e in generale su una panchina. Quindi che cosa vi aspettate di vedere questa sera dalla prima Juventus di Andrea Pirlo dopo aver visto la prima Roma di questa stagione, il primo Napoli, il primo Osimhen. Vi faremo sentire le parole di Pioli, aspetteremo insieme l'arrivo di Vidal che atterra questa sera a Milano. Per unirsi domani all'Inter di Conte, che questo è mio parere, ma voglio sapere cosa ne pensate anche voi, se avete intravisto qualcosa a gamba e qualità. E quindi attenzione quando compilate le griglie di questa vigilia di inizio di campionato, insomma c'è spazio per tutto. 800 24 00 24 numero verde per intervenire in diretta, 349 238 6666 sms whatsapp. C'è qui con me, tornato dalla Francia, Carlo Genta. Ciao, ciao Carlo. Giovanni, ciao a tutti. Saluto Carlo Pernat, ciao Carlo. Ciao, io sono sempre Misano, lo sapevo, Carlo, che è tornato dalla Francia. Ti abbiamo lasciato lì una settimana, però noi ci siamo fidati settimana scorsa delle sensazioni che ci avevi trasmesso nella domenica della vittoria di Franco Morbidelli. Invece oggi, ed è un po' così il tratto di tutta questa stagione delle moto, da cui partiamo, insomma, piloti e case hanno pazientemente picconato quelle poche certezze che avevamo, cioè tipo la Yamaha Misano è la più veloce di tutti. Non è vero, Bagnaia andava al doppio. Però Bagnaia è caduto, ha perso, quindi alla fine ha vinto Vinales. Abbiamo una classifica mondiale con quattro piloti in quattro punti. Quello che sta in testa è il più depresso di tutti, ma questa è una costante di queste settimane. Insomma, mi aiutate per favore a mettere insieme tutti i pezzi di questo puzzle? Carlo? Beh, dai, guarda, è un puzzle, hai detto bene, è difficilissimo. Guarda, oggi poi conta molto anche la fortuna e la sfortuna, però è contato molto le prove che si sono state fatte martedì qua a Misano. Queste prove sono state importanti soprattutto per la KTM, perché la volta scorsa KTM ha patito molto. Queste prove hanno aiutato la KTM a salire e Pol Espargaró ha fatto una bella gara. La Yamaha, secondo me, in questo circuito, l'abbiamo detto la settimana scorsa, erano le favorite, alla fine qualche risultato mi pare che l'abbia fatto, hanno vinto due gran premi, quindi insomma il favoritismo che gli abbiamo dato è andato oggi, in porto. Oggi per gentile omaggio, diciamo la verità. Sì, però sai, poi alla fine contano sempre i risultati, ragazzi. Io mi guardo sempre i papiri, che vince il mondiale, il secondo e primo dei perdenti. Ci sono le cause, indubbiamente. Morbidelli oggi è stato molto sfortunato perché è uscito subito, si è toccato con Espargaro, poi ha fatto una rimonta pazzesca girando con i tempi dei primi, quindi sai, le gare sono dettate anche da molti episodi. Io dico che la Ducati, se devo dire una cosa, con Bagnai ha trovato un pilota che la porterà sicuramente in alto, la guida bene, molto bene, diciamo che la guida come una Suzuki, è difficilissimo dire che la Ducati sia guidata come una Suzuki, però lo vedi che la butta bene nelle curve. Secondo me ha fatto un piccolo errore, un piccolo. Io sono andato un po' a vedere le telemetrie insieme al team Prama, che riconosco bene, loro dicono che non si vede l'errore, quindi può darsi che non, che ci sia, che non abbia capito nemmeno lui. Sarà. Però secondo me Carlo, sì, tu dici così, un motivo c'è. Però oggi mi viene da pensare due cose: ci fosse stato Marquez e non c'è Marquez, questo mondiale sarebbe già finito, perché gli altri stanno lì a rastrellarsi i punticini, mentre quello è un martello. La Ducati è la grande sconfitta di giornata, perché è vero che Dovizioso rimane primo nel mondiale, ma è fatto arrivato una gara... ottavo, Sì, ha fatto una gara da coprirsi gli occhi. Hai ragione. Guarda, io ti dico una cosa: la Ducati è sconfitta perché Bagnaia è caduto. Perché se Bagnaia vinceva, non era la grande sconfitta, onestamente. Sai, i risultati poi contano anche poi le pagelle e i giudizi. Io guardo la gara e vedo una Ducati con Bagnaia che è andato forte. E non dimenticarti la sfortuna di Miller, che era apparito bene, gli è andato un pezzo della moto di Quartararo, l'hanno trovata nella bocca dell'aria. E la moto era impazzita, andava da tutte le parti, se no anche Miller avrebbe fatto una grande gara. Io credo che la Ducati è sconfitta nel team ufficiale. Secondo me i due piloti, sia Dovizioso che Petrucci, hanno proprio chiuso la lampadina. Cioè, nel senso che sono stati, non dico abbandonati, cacciati via. Diciamo, gli hanno detto basta. Io fossi un pilota, quando mi dicono... basta, metto gli attributi sul serbatoio e gli dico: vi faccio vedere io. Vinco il mondiale, anche perché quando è che ricapita Dovizioso, appunto, un'occasione come questa? Esatto, e invece sembra che questi due piloti, Petrucci in un tunnel che secondo me la luce non so se la vedrà. Dovi sta facendo delle gare che non le faceva forse 4-5 anni fa, non è il Dovi che conosciamo. C'è sempre qualcosa che non va, è spento, lo vedi. Non ha quello stimolo, eppure lo avrebbe lo stimolo, perché quando ti dicono non ci sei, ma ti vinco il mondiale, ti faccio vedere io chi sono. Cioè, più stimolo di vincere un mondiale, io non so che cosa possa esistere. Bravissimo, quindi io gli do 5, 4 a questi due piloti, non si può. E poi Dovi è un pilota scafato, ragazzi, un pilota che insomma ci ha dimostrato di essere primo degli umani, no? Come abbiamo sempre detto, Carlo. Non capisco, non, francamente. No, ma gli basterebbe correre da 6. Io non dico che questo mondiale sarebbe chiuso, perché non è così. Non c'è la superiorità di Marquez. Però sarebbe ampiamente instradato. Noi abbiamo raccontato domenica scorsa un weekend in cui Dovizioso ha fatto la comparsa. La gara di oggi la stiamo discutendo adesso. E Dovizioso in testa al mondiale ancora. Ci rendiamo conto, no, ma sai, qui c'è stata una moria tra virgolette di personaggi incredibili. Quartararo lo davamo l'anti Marquez, se vi ricordate, le prime due gare, e secondo me, io ti dico per provocazione, che a lui manca Marquez, perché lui, se andava a battere Marquez, era un campione, se arrivava secondo, pazienza, perché vai contro un marziano. È una provocazione, ma guarda che nella testa di un pilota questa roba ci sta. Poi è andato in pressione, sembra una pentola a pressione, vedi, parte male, sorpassa male come non ci ha abituato, ha fatto un errore alla fine che ci sta, vabbè, quando stai lì nei sorpassi ci sta, però ha sbattuto la porta, io ero lì nel box vicino, sbatte la porta, non è Quartararo simpatico, vero, allegro, che si divertiva. Sì, sotto pressione si sente tutto. Beh, intanto 7 gare, 6 vincitori diversi, credo, se non ho sbagliato i conti, 12 piloti diversi che sono saliti sul podio. Stiamo parlando della MotoGP. Mi dai il voto di Valentino? Guarda, purtroppo Valentino devo dare insufficienza, perché un errore così da parte sua non me l'aspetto, specialmente dopo una gara come domenica scorsa, e con l'esperienza che ha sbagliato, ha pinzato il freno, è caduto. Poi ha cercato di rimontare, girava anche abbastanza bene, poi no, chiaramente quando vedi che sei a 10 secondi a metà gara piantini, io gli do un'insufficienza. Il weekend già era un weekend che non era nato benissimo, non era proprio era sempre l'ultimo della Yamaha. Sì, anche però... oggi ha detto molto onestamente, al di là dell'errore, non avevo il passo, non sarebbe stata non una grande domenica. Esatto, non l'abbiamo visto nelle prove, infatti anche nelle mie previsioni non ho mai messo nei primi cinque, guarda, onestamente, mi spiace. Ma sai, io adesso ti vi dico una cosa così strana, sai, Carlo sa che io sono un po' pazzeriello, però mi viene in mente una cosa. Ragazzi, Valentino non ha ancora firmato, ora io non è che voglio adesso... buttare giù una bomba, questa è una discussione, c'è quell'1% che ha lasciato aperto, no? 99% esatto, con Petronas. Però Carlo, guarda, si doveva firmare 3 mesi fa, poi se vi ricordate 2 mesi fa, poi 1 mese fa, poi l'annuncio a Misano, adesso ne parliamo. Barcellona adesso, è stata spostata la data. Ecco, sì, però sai, sono già qui in 5 le date spostate, io credo che non sia più un problema di squadra, perché dai, quello che so io, 4 persone lo seguirebbero. Io così ho l'impressione che lui possa anche un attimino pensare nella sua testa di passare il testimone da fratello, non lo so. Cioè di mollare lì, so. Insomma, alla fine di questa non stagione. Lo so. Ma cazzi, non ho notizie. No, cioè, no, non no, è chiaro, sono è sensazioni. È un'impressione di Carlo Pernat, una sensazione di Carlo Pernat, magari pronto a essere smentito, e spero, perché Valentino lo voglio vedere, però... c'è qualcosa che non mi quadra. No, intanto fratellino oggi è arrivato quarto nella Moto 2, perché al di là della Moto GP è stato un festival delle due italiana. Ruote italiane. Bastianini Bezzecchi, primo e secondo nella Moto 2, Fenati con tutto ciò che riporta 2 anni dopo quella follia che lo sì. costrinse ad andare giustamente dietro la lavagna. Fenati ha vinto la Moto 3 secondo Vietti, la Moto 2 di fatto è cosa nostra, poi vedremo sì. quando torneranno gli spagnoli, ma c'è Marini leader con 5 punti su Bastianini e 20 su Bezzecchi, ed è affascinante questa sì, cosa dell'idea bello. Di Valentino che voglia magari lasciare idealmente lo scettro al fratellino che arriva da mondiale. Il problema è che il fratellino non è il più forte in Moto2, perché secondo me Bastianini e Bezzecchi hanno più talento di Luca Marini. Sono d'accordo Carlo, però sai c'è un'onda di vedi no, un'onda chiamiamola comunicazionale di portare Marini in MotoGP. Diciamo che sì, io sono d'accordo con te su una cosa, che Bastianini e Bezzecchi sono due talenti naturali. Marini tanto di cappello, non ha il talento naturale loro, però si è costruito ed è molto forte. Ora sai c'è questa diatriba, entro Barcellona si deciderà anche se Marini potrebbe arrivare insieme a Bastianini nel team di Aventia, che poi è il team Ducati. Ed è un grosso problema. Lo sapeva Barcellona, secondo me se lui non raggiungerà il team Aventia potrebbe esserci quella possibilità del testimone che dico io. Spero di sbagliarmi, è una sensazione ragazzi. Allora, è solo una sensazione. Raccogliamo questa sensazione e ci aggiorniamo fra 7 giorni in realtà, perché questa stagione molto compressa ci porta a raccontare fra 7 giorni la prossima tappa, che sarà a Barcellona, Gran Premio della Catalogna, e vedremo quale altro capitolo aggiungerà al romanzo di questo mondiale di MotoGP. Grazie Carlo. Ciao Carletto, grazie a voi, bravo. Ciao a tutti. Ciao. Ragazzi, ciao. Grazie a Carlo Pernat. Allora 800 24 00 24, chiudiamo qui la pagina della MotoGP, il traffico, e poi parleremo di calcio. Dispiace perché quest'anno vado a braccetto un po' con la sfiga, si può dire, e è una cosa che dà fastidio perché la moto fa paura. Stiamo riuscendo a essere molto veloci sempre, ai rezzi è rotto motore, qui sono caduto, ho avuto la frattura alla tibia per una caduta veramente stupida, quindi quest'anno non ci sta andando benissimo, però la cosa importante è che abbiamo dimostrato di essere stati più forti questo weekend. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta. Convocati. Fonseca, io invece ci torno su Dzeko. Ma come mai non ha giocato neanche un minuto questa sera? È stata una settimana molto difficile per Dzeko. Io ho fatto questa scelta per preservarlo principalmente. Si sbilancia anche su Chiesa, che rimarrà presidente? Sì, sì, fino ad oggi hai sentito qualche altra cosa che non so io. Io non so nemmeno. Se non lo sa lei, Presidente, noi lo chiediamo a lei come sempre, perché meglio di lei nessuno può dirci se Chiesa rimane o meno. Sì, guarda, ma perché non parliamo della partita? Voi altri perché volete... Chiesa è stato bravissimo, perché poi c'è stato il passaggio di Chiesa a Castrovilli, due giovani che possono essere il futuro della Fiorentina. Sì, sì, sì, ma voi altri volete sempre, you know, sempre sbilanciarmi. Dimmi, chi va via? Perché non vediamo chi è entrato quest'anno? Io credo che la squadra è più forte, l'ho detto. Hai detto che per i centravanti non hai fretta, volevo sapere se hai ancora speranza, ci sono ancora possibilità che sia Luis Suarez. Ma è difficile, perché guardando quello che è successo e anche guardando i tempi più che altro per avere il passaporto, so che saranno lunghi e quindi è difficile che possa essere il centravanti della Juventus. Non è una grandissima novità che col mercato in chiusura il 5 ottobre le prime giornate sarebbero state fortemente condizionate. Però, carissimo Carlo, saluto intanto Xavier Iacovelli, direttore di Tutto Sport. Ciao direttore. Buon pomeriggio a voi. Ciao. Però mi ha sorpreso molto, stavo facendo questa riflessione, che alla fine il caos intorno a Milik, adesso tra l'altro vi leggeremo il comunicato di questo pomeriggio della Roma, sta consentendo di fatto a De Laurentiis in questo momento di tenere due potenziali avversarie, diciamo idealmente in una corsa scudetto Champions League, senza numero 9. Ah, certo. Perché la Juventus questa sera debutta a Torino con la Samp senza numero 9. Ieri sera abbiamo visto quanto ha pagato la Roma il fatto di non giocare con un centravanti in una partita che probabilmente con un numero 9 avrebbe portato a casa a Verona. E insomma, alla fine io non so se sta facendo apposta, direttore, ma è diabolico, eh. Ma non so nemmeno io se stia facendo apposta. La situazione comunque che la situazione si sbloccherà nei prossimi giorni, nell'interesse di tutti, soprattutto dei giocatori, cioè di Milik e di Dzeko. Il fatto stesso che non sia stato impiegato ieri sera è stato significativo. Vuol dire che evidentemente la Roma aspetta appena il segnale giusto da Milik e dal Napoli. Guarda, io non vedo perché Fonseca non avrà dovuto impiegare Dzeko in una circostanza come quella di Verona, appunto. Ah. Sì. Beh, per completezza, allora, questo pomeriggio la Roma ha fatto anche un comunicato ufficiale smentendo in qualsiasi modo di aver parlato delle condizioni fisiche di Milik, perché una delle letture che viene scritta oggi sui giornali è che ci sarebbero perplessità sullo stato delle due ginocchia dell'attaccante polacco, cosa che ovviamente ha fatto arrabbiare il Napoli, perché Milik è andato su accordo tra De Laurentiis e Friedkin a fare queste visite approfondite fuori dall'Italia. Chiaramente il Napoli non può accettare che girino voci sullo stato di salute del proprio attaccante. No, giusto che sia, però non vai lontano dal vero dicendo che De Laurentiis comunque, cioè che fossi la Juventus, insomma, non starei troppo tranquilla all'idea che comunque il mio tassello centravanti è legato alla volontà di De Laurentiis, perché è lui che tiene le fila di questo gioco, altrimenti la Juventus avrebbe già chiuso con Dzeko da tempo, avrebbe un centravanti già stasera con la Sampdoria, mentre così è un gioco a rimpiattino che si sbloccherà, sì, siamo tutti contenti, ottimisti, però, convinti ottimisti, però De Laurentiis tiene in mano dirige le marionette. Insomma. Perché la Juve, direttore, adesso ha bisogno di Dzeko, cioè al di là delle parole anche di Pirlo, che non ha di fatto chiuso del tutto a Suarez, ha detto il problema è il passaporto, poi magari fra una settimana il problema passaporto non esiste più, cioè la Juve ha bisogno di Dzeko. Beh, sarebbe clamoroso se in una settimana Suarez ottenesse il passaporto, visto che la casistica media di chi sostiene il fatidico però esame. Lo sapevamo anche 20 giorni fa, direttore, quando tutti lo sapevamo anche 20 giorni fa, quando tutti abbiamo dato per fatta, diciamo, la cosa Suarez. No, io credo che la prima scelta sia sempre stata Dzeko, per Tutto Sport è sempre risultato questo e sono convinto che tale rimanga. La Juventus non può permettersi di aspettare il 5 di ottobre pendendo dal passaporto di Suarez, ma soprattutto perché c'è una lista da presentare, una lista Champions da presentare alla UEFA, e poi bisogna anche vedere che cosa accadrà con Suarez, perché 5 giorni fa c'è stata una cena molto importante fra Messi e Ronald Koeman, durante la quale Messi ha assolutamente perorato la causa dell'uruguaiano, che potrebbe rimanere al Barcellona per un altro anno e poi, senza rinnovare il contratto, dal 1 gennaio trovarsi una squadra a parametro zero. Che meraviglioso intrigo, però questo sul centravanti della Juventus. Intanto, informazione per i tifosi della Juventus: non è stato convocato Pellegrini e molti tifosi si sono arrabbiati perché c'è Alessandro infortunato, Pellegrini non convocato perché è destinato a partire, no, direttore, e però molti si sono arrabbiati dicendo: dov'è la programmazione della Juventus che rischia di affrontare di fatto al buio su quella fascia una stagione? Io credo andrebbe spiegato che tutti, Juventus compresa, in questo momento, se possono vendere, vendono. Certamente sì, perché chi si arrabbia per queste cose non conosce le dinamiche del mercato al tempo del Covid o fa finta di non conoscerle. Questa è una sessione di acquisti e cessioni totalmente diversa, fatalmente diversa, doverosamente rispetto a tutto quello del resto, soprattutto quello del passato. La prima necessità di tutti i club, piccoli, medi, grandi, è quella di vendere. Non c'è liquidità, questo bisogna metterlo bene in testa, perché a parte alcune eccezioni, soprattutto straniere. Per quanto concerne il mercato italiano, la prima necessità dei club è quella di vendere. Noi registreremo molti prestiti da qui al 5 di ottobre, onerosi, con diritto di riscatto, con obbligo di riscatto magari fra 2 anni o fra 3 anni. Le formule sono fantasiose, ma non c'è alternativa, perché chiunque parli con l'operatore di mercato di qualunque società sentirà dire che il primo problema è la mancanza di liquidità, soprattutto con gli stadi ancora chiusi o aperti a 1000 persone, sappiamo benissimo cosa significa avere 1000 spettatori piuttosto che 30.000 o 40.000. Che effetto ti ha fatto rivedere quei 1000? Un bel effetto, mi sarebbe piaciuto che ci fosse stata una migliore organizzazione, perché questo veramente è un paese meraviglioso, ma è un paese che soprattutto quando si tratta di affrontare le tematiche legate allo sport, calcio in questa circostanza, ma vogliamo parlare anche dell'internazionale di tennis di Roma, ma non sta né in cielo né in terra che questo torneo debba aspettare le semifinali e le finali, peraltro un torneo particolarmente bello e combattuto anche per quanto concerne le prestazioni degli azzurri, dopo che il 12 di agosto, oggi siamo al 20 di settembre, la federazione tennistica aveva presentato 2 piani per un accesso regolamentato e rigidamente sottoposto alle condizioni di sicurezza, si è sentita dare una risposta il 5 di settembre, risposta negativa, adducendo come motivazione che anche all'US Open è stata fatta la stessa cosa. Ma vogliamo paragonare la situazione epidemiologica degli Stati Uniti a quella dell'Italia? C'è, come al solito, molta superficialità, molta disorganizzazione e soprattutto molta trascuratezza da parte dei politici di ogni ordine e grado, di ogni colore, non mi interessa la colorazione, quando si tratta di affrontare i problemi legati all'organizzazione sportiva. Ma come si fa a dire il venerdì che 1000 spettatori possono entrare? Vuol dire ignorare totalmente le dinamiche della vendita online dei biglietti, che devono essere ovviamente prenotati, ci devono essere dei posti a sedere, c'è un'organizzazione che riguarda gli due, ma veramente c'è da rimanere stupefatti di fronte alla scarsa conoscenza di tutte queste problematiche. Sì, quindi ci prendiamo per buono aver visto qualcuno che è tornato dentro lo stadio, su tutto il resto stendiamo un velo pietoso e speriamo che almeno, diciamo, i prossimi giorni aiutino dalla seconda giornata, anche solo questo atto simbolico dei primi 1000, a dargli una consistenza differente e anche una possibilità per i club comunque di fare quello che fanno per lavoro, e cioè vendere un prodotto di intrattenimento, che in questo caso è il calcio. Grazie direttore. Ciao direttore, a presto. Grazie a voi, buona serata. Ciao ciao, grazie da Xavier Iacobelli, direttore di Tutto Sport. Allora, ci fermiamo. Intanto Djokovic si è qualificato per la finale battendo in 2-7, 7-5, 6-3 il norvegese Ruud, e aspettiamo più tardi l'esito della seconda semifinale, quella tra l'argentino Schwartzman e il canadese Shapovalov. Tra mezz'ora in campo Sassuolo-Cagliari, che è la terza delle 4 partite del campionato di Serie A di questa domenica. Tra mezz'ora inizia anche la finale di Supercoppa di basket con 2000 spettatori presenti, sì, sì, tra Milano e Virtus Bologna, e noi siamo felicissimi che ci siano 2000 persone presenti. Ce ne erano 10.000 a Misano oggi. Insomma, se siete stati a vedere qualcuna di queste cose, o magari a Milano ieri in 1000 a vedere l'amichevole dell'Inter contro il Pisa San Siro, chiamateci 800 24 00 24. 1000 contraddizioni, puoi trovare tutte quelle che vuoi in questo momento. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349 238 6666. 349 238 6666. Tutti convocati. Tutti convocati. A me mi piace, io vedo il calcio in maniera diversa quando giocavo. Prima volevo 11 Gattuso quando giocavo e preferivo che le partite si finivano tutte 0-0. Adesso la qualità mi piace, però devo dare anche un po' di equilibrio alla squadra, perché sennò. E oggi penso che gli ultimi 35 minuti abbiamo fatto correre tantissimo la loro mezzale, sono arrivate cotti e alla fine secondo me abbiamo sfruttato anche tutto il lavoro che abbiamo fatto fare in fase di non possesso. Questo Gattuso al termine di Parma-Napoli 0-2, la qualità di cui parla è quella che il Napoli ha trovato inserendo Osimhen, mancava mezz'ora alla fine, il punteggio era 0-0, è passato al 4-2-3-1, Osimhen con Lozano, Mertens e Insigne. L'ultima mezz'ora del Napoli è stata una sinfonia contro un Parma che stava però in realtà calando. Saluto per Luigi Pardo, ciao Pier. Ciao Pier. Ciao, ciao, ciao. Saluto anche Gigi De Canio, ciao mister. Buonasera a tutti, bentrovati. Ciao. Ciao, ciao. Allora Pier, ciao. Mi dai un tuo giudizio sul Napoli? Ho visto che hai scritto qualcosa su Twitter e condividi quello che ha detto Gattuso, credo. Sì, sì, sì, tra l'altro mi piace questa sottolineatura di Gattuso che dice candidamente che ha cambiato idea rispetto a quando era calciatore sul tipo di gioco che gli piace. Io credo oggi abbiamo visto, e poi ho sentito anche il mister su questo, abbiamo intravisto nella mezz'ora finale quello che potrebbe diventare l'approdo del Napoli, cioè una squadra che ha una qualità potenziale lì davanti enorme e che chiaramente però, insomma, come tutte le squadre non può prescindere dall'equilibrio. Quindi diciamo che la sfida di Gattuso è riuscire a poterci permettere il modulo che noi abbiamo visto l'ultima mezz'ora, i giocatori, gli interpreti che abbiamo visto l'ultima mezz'ora. Per farlo deve avere ovviamente Manolas e Koulibaly in grandi condizioni, il sacrificio da parte di tutti gli attaccanti di quelli che devono dare una mano in mezzo. E una condizione fisica di un certo tipo, però io credo che sia l'approdo, no? Cioè, se il Napoli vuole diventare una realtà importante di questo campionato e di questa stagione e forse addirittura dominante, deve fare questa, quello che si è visto l'ultima mezz'ora, e deve riuscire a farlo non solo con tutto il rispetto contro il Parma spuntato di oggi, ma anche contro squadre messe meglio. Mister? Sottoscrivo pienamente tutto ciò che ha detto Pier. Aggiungo che il Napoli può farlo questo, e che la qualità di cui dispone e che ha dimostrato quando è entrato Osimhen è una qualità che può sfruttare solo se c'è da parte di tutta la squadra un atteggiamento propositivo quando è in possesso di palla e anche però di grande sacrificio quando la palla non ce l'ha. Quindi il Napoli l'equilibrio lo deve ritrovare non con una scelta differente di uomini, ma con un atteggiamento tattico che sia che possa valorizzare, ecco, questo valore aggiunto che ha. Probabilmente serve anche la condizione fisica ottimale che non puoi avere alla prima giornata, no? Certo. Certamente, certamente. Però mi piace tantissimo Gattuso che rivendica l'abbandono, l'ha già fatto in passato, però lo sta facendo oramai in maniera sempre più lucida, l'abbandono del gattusismo, non so come vogliamo chiamarlo, no? Quello degli 11 Gattuso in campo, tanto cuore, tanta legna e poca qualità, no mister? Però lui è, insomma, esagera con se stesso, perché tanta legna lui la faceva da ragazzino. Io andavo a vederlo quando era nella primavera del Perugia, perché allenavo in C e avevo bisogno di gente come lui. Poi lui scese di andare in all'Empa, però poi dopo in seguito lui è diventato un calciatore vero, perché quando ha giocato con campioni del calibro di Pirlo, Seedorf, Kakà e via dicendo, ha giocato bene anche lui, dimostrando che comunque bisogna saper giocare a calcio se vuoi stare nelle grandi squadre. Non è stato Gattuso solo perché ringhiava, è stato Gattuso anche perché sapeva giocare. Sì, non era. Ma Rino, poi, Rino non ce era l'ha, così questa, questa caratteristica ce l'ha. Questa caratteristica ce l'ha, di essere un po' troppo modesto in tante situazioni. Io pensavo alla Juve di Allegri che arrivò a Cardiff, al di là poi dell'andamento ovviamente di quella finale, o pensavo al Real Madrid della decima con Di Maria spostato sulla linea dei centrocampisti Cioè le grandi squadre, le grandissime squadre, quelle che hanno l'ambizione di diventare grandissime squadre, devono riuscire a potersi permettere la maggiore qualità possibile senza perdere equilibrio. Cioè, la partita è quella. Questo è giustissimo, questo è sacrosanto, e questo dobbiamo cercare di perorare, perché il calcio è fatto dai grandi calciatori e noi ci emozioniamo quando ci sono le belle giocate, le grandi giocate, e quindi sì. Il tema è assolutamente questo, no? Cioè, è riuscire ad avere in campo quella qualità lì senza però risentire dal punto di vista dell'equilibrio, che non è una cosa astratta, è una cosa importantissima, perché è ovvio che se tu giochi con Lozano, Insigne, Mertens, Osimhen, Fabian Ruiz e Zielinski contemporaneamente, insomma, di qualità ne hai, di qualità ne hai, ma ovviamente hai anche bisogno che tutti diano una mano, tutti diano un loro senso di sacrificio, perché se no rischi in certe situazioni, magari con avversari un pochino più avanti nella condizione tecnica e fisica, di andare in difficoltà. Però, quindi vale anche per Conte, che perché oggi è il giorno di Vidal, ieri sera, per chi l'ha vista l'amichevole, tutte le amichevoli lasciano il tempo che trovano, però amichevole contro il Pisa, squadra di Serie B, giocata con Lukaku, Lautaro Martinez, Perisic, Hakimi e Eriksen. Quindi vale anche per Conte l'idea, certo, che a quelli, certo, di qualità, certo, bisogna trovare un posto. Penso a Eriksen. Posso dire una cosa? In amichevole con il Pisa vale. Poi vediamo quando comincia il campionato dell'Inter. Dimmi. Tu sai quanto io stimi Conte, no? Penso non ci siano dubbi. Credo che sia un allenatore che ha un, non lo devo dire io, ma insomma ha un impatto clamoroso. Io credo che lui, dal punto di vista della qualità, cioè del rischiare qualcosa di più, dello sperimentare qualcosa di più, di uscire in certi momenti dalla coperta di Linus, del suo modulo di riferimento che gli dà risultati, ecco, lui in quello possa ancora crescere, nel senso che Conte è un allenatore, secondo me, di straordinaria forza, di straordinaria applicazione, che mette in campo la squadra, trova il modulo giusto e tira fuori il meglio dei giocatori. Un trapano, un martello, veramente. Quando c'è da fare quel salto di qualità, qualche volta non è che non ce l'ha, cioè non è che non riesce a farlo, magari delle volte preferisce rimanere su un sentiero che conosce di più, no? E quindi ieri io non l'ho vista perché stavo andando a Verona, ovviamente, ho visto oggi, ho letto i giornali, è chiaramente il Pisa, con tutto il rispetto alla squadra di Serie B, però l'idea già semplicemente l'idea di capire se Eriksen gli può essere utile. Guarda che già questo però, è tanto, Però voglio dire, in questi minuti, in queste ore sta sbarcando a Milano Vidal. Io non so se Gigi De Canio si aspetta che Conte provi a fare questo passo. Io che conosco Conte, che insomma ha lavorato con me, poi naturalmente mi ho seguito la crescita, conosco un po' il suo modo di pensare. Lui vuole grandi, che ha giocato poi con grandi calciatori, che però non siano solo bravi da un punto di vista tecnico, ma che abbiano anche la capacità di essere, tra virgolette, guerrieri, cioè di dimostrare fisicità, però sempre grandi calciatori. Il centrocampo alla Juve era Pirlo, Vidal e Pogba, e lui Pogba se l'è portato, l'ha fatto crescere, era ragazzino, veniva dal Manchester, e poi lo ha fatto giocare con continuità per quel campione che è. Ecco, Conte ama questo tipo di giocatori, e naturalmente la società che lo conosce, prendendolo, sa che cosa prende, sa che cosa si porta a casa. Non c'è dubbio che lui, ecco, penso che se avesse nella rosa questi calciatori, questa tipologia di calciatori, insomma, credo che anche a livello europeo riuscirebbe ad avere quella continuità che ha anche nei campionati, perché è veramente forse uno degli allenatori al mondo che incide la squadra. Abbiamo il traffico, no. Grazie a Gigi De Canio, grazie mister. Grazie a voi. Ciao. Alla prossima. Stiamo seguendo anche Chelsea Liverpool, che sono in campo da 16 minuti, 0-0 il parziale, tra un quarto d'ora Sassuolo Cagliari. Ci fermiamo, il traffico, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati. Restiamo, se volete, sul tema Inter. 800 24 00 24, Carlo Genta più Luigi Pardo. Saluto Andrea Ramazzotti, inviato del Corriere dello Sport. Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti. Ciao. Allora, ci aiuti a capire se quello che abbiamo visto ieri sera in un'amichevole, quindi noi lo ribadiamo, le amichevoli vanno prese insomma per quello che sono, soprattutto in questa stranissima fine d'estate, inizio d'autunno. Però quello che abbiamo visto con questa grande concentrazione di qualità dentro l'undici schierato da Conte è una traccia, oppure il fatto che tra poco atterra Vidal ci fa capire che semplicemente si è trattata di una rotazione di fine estate, Andrea? Una rotazione di fine estate, secondo me, anche perché con la rosa extra large che adesso a Conte aveva programmato due amichevoli nell'arco di 24 ore, quella di venerdì contro la Carrarese ad Appiano e quella di ieri a San Siro contro il Pisa, quindi ha ruotato i giocatori. Detto questo, la rosa dell'Inter già adesso con l'arrivo di Vidal rispetto a quella dello scorso anno è molto migliorata, perché sono stati inseriti giocatori come Hakimi, Kolarov e appunto Vidal, oltre al ritorno di un certo Perisic che ha vinto il triplete con il Bayern Monaco, più Nainggolan che vedremo se resterà o meno, ma mi sembra che la rosa sia notevolmente migliorata. E Conte è contento? Ma io credo proprio di sì, insomma, come tutti gli allenatori penso che si aspetti qualcos'altro. Non è un mistero che Conte gradirebbe avere un altro giocatore a centrocampo, e quel giocatore a centrocampo è Kanté, da piazzare davanti alla difesa nel 3-5-2 o 3-4-1-2 che lui ha in mente. Però insomma, io credo che già così l'Inter abbia un'ottima intelaiatura. Sì, credo, sono d'accordo con Andrea, quello che ti ho detto prima, ha giocato così in amichevole contro il Pisa. Io credo che il vero punto di partenza sia l'Inter della finale persa in Europa League, e comunque quella squadra che alla finale c'era arrivata, e quella squadra che alla finale c'era arrivata era tanta roba, aggiungendo Vidal, aggiungendo Hakimi, e insomma l'equilibrio, credo che il punto di equilibrio sia quello che non verrà toccato, magari mi sbaglio. No, fra l'altro Vidal, per tornare al discorso che facevamo prima, che comunque è un giocatore con caratteristiche soprattutto di copertura, di forza, anche se poi sappiamo che è un giocatore che si inserisce e che segna dei gol e che può dare una mano in fase offensiva, però può essere anche uno strumento in più per avere più libertà di osare lì davanti, nel senso che chiaramente il calcio è fatto di equilibri, quindi quando tu hai un giocatore come Vidal che ti protegge le spalle dietro, forse puoi permetterti anche una formula offensiva più creativa e più libera da compiti di copertura. Quindi insomma, per me Vidal è un grande acquisto. Con riferimento a Eriksen, perché il domandone è: Eriksen giocherà quest'anno? Secondo me adesso no, poi vediamo. Secondo me, Andrea? Secondo me no. Allora faccio l'altra domanda: sì, ma resta o no all'Inter? Secondo me resta perché Eriksen è un giocatore che nell'operazione che è stata compiuta nello scorso mercato di gennaio non svelo niente di nuovo, perché è già stato svelato dai bilanci, tra costo di acquisto e oneri vari è a bilancio per 27 milioni, un pochino meno perché adesso è passato qualche mese, però trovare in questo post-Covid squadre che sono disposte a investire cifre importanti, perché comunque Eriksen, anche se non ha giocato molto all'Inter, non è che è un giocatore scarso, è un top player, ha un ingaggio da top player, quindi secondo me non ci sono gli acquirenti, però se ci fossero gli acquirenti, secondo me l'Inter ci potrebbe anche pensare, anche perché non mi sembra un giocatore chiave nel calcio che Conte ha in mente. No, anzi, finisce poi, inutile girarci intorno, per essere un peso e il convitato di pietra, perché non è nemmeno semplice immaginare di gestire una stagione intera con Eriksen fondamentalmente indirizzato verso la panchina. Non facile, anche a livello ambientale. Secondo me Eriksen è una situazione che va risolta, in un senso o nell'altro, lo dico sinceramente, secondo me è una risorsa e rientra nell'ambito di quelle... di quello che dicevo prima, cioè Conte, che ripeto è però bellissimo. Se non ci credi, Però è chiaro, quindi io insomma penso che lui possa avere delle cose importanti da Eriksen e penso che lui debba lavorare in quella direzione lì, di provare a uscire in certi momenti anche dalla comfort zone di un modulo che lui ha trovato, perché secondo me Eriksen gli può dare tanto. E se però è assolutamente convinto che non è così, allora forse è meglio non rischiare di trovarsi di fronte a una situazione che ogni settimana, da tutti i punti di vista, non solo mediatico, ma anche di... Non è un giocatore facile da tenere in panchina, ma non perché si comporti male, perché è un giocatore comunque importante, un giocatore con 600 presenze. No, prima o poi qualcuno potrà anche fare due domande a Conte, no? E immagino che una delle due sia su Eriksen. Non è semplicissimo. Partendo dal presupposto che poi sì, lì sicuramente c'è stata probabilmente un non perfetto allineamento tra società e allenatore, che però, ragazzi, c'è da tutte le parti, perché insomma Sarri l'anno scorso non aveva la squadra sarriana, adesso al netto dei suoi errori che ci sono stati, sì, non bisogna aveva la squadra sarriana. Fonseca non è che c'ha tutte le settimane la squadra che vuole. Inzaghi, ma Conte è Conte, Pierluigi, Conte è Conte, quelle cose, cioè, fondamentalmente Eriksen non lo voleva e non è probabilmente neanche un giocatore adatto a lui, cioè non è un giocatore che gli è congeniale. Una volta ha detto: ma a me importa poco i giocatori dal collo in su. Non è vero, perché secondo me anche nella faccia, quasi nell'espressione, nell'emotività, Eriksen non lo convince, non l'ha mai convinto. Ragazzi, Eriksen, adesso, cioè, noi siamo tutti abbonati, abbiamo visto tutti, non dico il campionato olandese, ma almeno quello inglese lo vediamo tutti. Cioè, Eriksen è stato un leader del Tottenham. Sì, sì, sì. Cioè, non stiamo parlando di un giocatore, poi avrà avuto sicuramente le sue responsabilità, non si sarà presentato qui con la cattiveria agonistica che Conte sognava, avrà avuto una partenza forse più complessa di quello che poteva immaginare, questa cosa magari gli ha tolto un po' di entusiasmo, però insomma stiamo parlando resta di un grande giocatore. È un leader di questa squadra. Cioè, guarda, io credo che squadra, sia anche rimasto incastrato in quella valutazione che abbiamo capito, insomma, fatta da Conte, che avrebbe voluto un giocatore diverso. Quando le cose nascono male, poi diventa difficile raddrizzarle. Esatto. C'è in mezzo il Covid, peggio ancora. Ci dobbiamo fermare. Allora, io ringrazio Andrea Ramazzotti, Corriere dello Sport. Ciao, Andrea. Ciao, Andrea. Grazie a voi. Ciao, grazie. Alla prossima. 0-0 Chelsea Liverpool. Siamo al 24esimo del primo tempo ed è questa la partita più bella della domenica in Inghilterra, ma credo anche in generale in Europa, perché il Chelsea è una squadra molto interessante da scoprire in questo avvio di stagione. Alle 18 ci sarà Sassuolo-Cagliari, poi alle 20:45 Juventus-Sampdoria, che vuol dire tanto per l'avvio di questo campionato in Italia. Noi ci fermiamo per qualche minuto per il GR, poi ritroviamo per Luigi Pardo, Carlo Genta, parliamo della Juventus di Andrea Pirlo, ma ci sarà spazio poi per parlare anche della Roma che abbiamo visto ieri sera, del Tour de France, del tennis, e alle 18:35 l'appuntamento con Varanatomi con Luca Marelli. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Domani Radio 24 dedica una lunga diretta ai risultati delle elezioni amministrative e del referendum costituzionale. A partire dalle 15, tutti gli aggiornamenti sullo spoglio, gli exit poll e le proiezioni, con collegamenti da Montecitorio, le voci dei principali protagonisti politici e gli inviati nelle regioni. Spazio anche alle analisi del voto e ai commenti, con ospiti ed esperti. Elezioni amministrative e referendum costituzionale. Domani, a partire dalle 15, su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da GS Risarcimento Danni.it, la forza di cui hai bisogno. Tutti convocati. Dubbi non ne ho. Certezze tante, sono la Juventus, alleno una squadra di campioni e quindi questa è la certezza più grande che ho. Mi sono inserito benissimo in questo ambiente perché è stato facile, però adesso inizia il campionato, iniziano le partite vere e la certezza è che alleno una squadra forte. Vorrei vedere quello che abbiamo preparato sin dall'inizio, un atteggiamento positivo, la padronanza del campo, la ricerca continua della palla anche in fase di riaggressione. Quelle sono le cose principali sulla quale abbiamo lavorato in questo mese. Non devo scuotere nessuno, inizia una stagione nuova, si parte da zero e quindi dobbiamo avere la voglia e la ferocia di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Allora, queste le parole ieri di Andrea Pirlo nella sua prima vigilia da allenatore di Serie A. Questa sera Pirlo debutta nel massimo campionato e debutta in assoluto su una panchina con questo incrocio particolare, Carlo. Debutta contro la Sampdoria di Ranieri, che questa sera fa la 400ª panchina solo in Serie A. Poi ci sono tutte le altre di una carriera lunghissima. Ranieri è di fatto il decano degli allenatori italiani. Bambino. Il vecchio e il neonato, neanche il bambino. Il neonato, esatto. Il vecchio e il neonato, no? Pierluigi Pardo è un incrocio meraviglioso, se vogliamo, come storia da raccontare. Ma assolutamente, assolutamente, perché insomma è chiaro che la gavetta Pirlo non l'ha fatta, però l'intelligenza che ha mostrato da calciatore gli ha sicuramente aperto delle porte. C'è poco da fare, quindi voglio dire, ha avuto delle vie preferenziali, sì, ma va bene così, perché Pirlo, perché evidentemente la sua intelligenza, la sua professionalità che da calciatore gli ha consentito di raggiungere quei risultati, poi evidentemente i dirigenti della Juve l'hanno considerata un elemento fondamentale. Sì, però poi da questa sera c'è il responso del campo. Ma certo, no, ma è ovvio, però io ragazzi lo dico da non tutti, lo diciamo, è chiaro che è un azzardo, è chiaro che è un rischio, però io credo che sia la voglia, ma anche Guardiola era un rischio, è vero che lui aveva un'esperienza superiore rispetto a quella di Pirlo, non ci vuole molto per Pirlo, è la prima panchina in assoluto della vita, quindi è ovvio che sia qualcosa di ancora più estremo, però va bene. Così, dal punto di vista giornalistico è estremamente affascinante. Se la Juve si fida di lui, secondo me ha ottimi motivi. Io penso che lui sia veramente uno di quei prospetti che hanno un carisma, un magnetismo, insomma, hanno solamente delle qualità speciali. Poi appunto sì, adesso tocca il campo. Resta il fatto che conosciamo tutti la genesi, no? Pier, congiunzione astrale che si è creata in quest'anno sì. Stranissimo con la Juventus che va fuori con Lione, con mille cose che sì, sono venute però, a gara però, sì, però non è che quello incide, ma potevi pure fare altre scelte, no? Se hanno scelto Pirlo è perché evidentemente, ripeto, l'hanno fatto legittimamente, è perché lo considerano adesso un tipo di prospetto. Credo Pier che poi lo inizieremo a capire da questa sera, quanto ci sia anche di scelta, non tanto nello scegliere Pirlo, che di fatto era già stato scelto per l'Under 23, con magari davanti l'idea da in due o tre anni di diventare l'allenatore della prima squadra, ma nella tempistica in cui è successo. Mi incuriosisce sapere cosa ne pensano i tifosi della Juventus. Saluto Alessandro Allara. Ciao Alessandro. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Hai visto che abbiamo convocato per la prima di Pirlo. È clamoroso, fresco di compleanno, fra l'altro. Fresco di compleanno. E che da quello che ci risulta sta per andare a vedere l'Internazionale d'Italia, seconda sessione delle semifinali. Corrigimi se sbaglio, sì, Alessandro. Sono tra i mille fortunati di Roma. E dura la vita, eh? Dura la vita. Allora, cosa ti aspetti dalla prima Juve di Pirlo? Allora, intanto sono un po' in lutto perché ho sentito dell'arrivo di Vidal all'Inter e questa cosa mi turba abbastanza. Devo cambiare il nome al cane, perché ho chiamato il cane Arturo in onore di Vidal, quindi adesso mi toccherà. Sì, ma non si può cambiare il nome al cane, però faccio un giro all'anagrafe canina, non ti preoccupare. No, sì, perché altro bisogna convincere lui. Scusa, e chiamalo Artur. Esatto, Artur potrebbe essere buono, sì. Allora, parlando di oggi, la parola curiosità è stata abusata in questo periodo su Pirlo. Io sono un po' preoccupato per il tema attacco, ovviamente, come tutti, anche se magari stasera scopriamo che Kulusevski è un grandissimo centravanti, nessuno lo sapeva, e quindi risolviamo il problema. Però per adesso la cosa mi turba, perché abbiamo abbondanza in difesa sulle fasce e insomma davanti, anche a mezzo al campo direi, mentre davanti siamo un po' corto, quindi questo mi lascia un po' perplesso, e il fatto che non sia arrivato il giocatore per la prima di campionato è un po' inquietante, però ce la facciamo andare bene. Beh, io direi invece, tornando a Pirlo, che in questi giorni commentiamo un allenatore di poche parole ma con una certa personalità comunicativa. Cioè, settimana scorsa eravamo a quei dire: ah, però hai visto, alla fine l'ha buttata lì, il 9 serve e serve anche in fretta. Ieri lo abbiamo sentito anche nella copertina: no, io non ho dubbi, ho solo certezze, sono qui, sono tranquillo. E io lo trovo abbastanza sorprendente, Alessandro, perché ripetiamo, questa sera Pirlo siede sulla panchina per la prima volta e tra l'altro non c'è neanche stato tantissimo nella sua carriera da giocatore, eh? Cioè non è che tu dici ha fatto apprendistato in altri momenti, esatto, territorio sconosciuto. Ma sai, io credo che alcune persone, alcuni caratteri abbiano la leadership giusta per non avere paura di affrontare sfide nuove, capita non solo nel calcio, anche in altri anni. Che Pirlo sia uno di questi, quindi magari di parole davanti alle telecamere, ma di cazzimma, come direbbero, come direbbe Gattuso, sì. per dalla la determinazione di costruire la squadra. Io non sono preoccupato da lui, il fatto che Chiellini lo chiami per nome, tutte queste discussioni che ho sentito veramente a tutti i convocati tutti i giorni da religioso ascoltatore, ma mi preoccupa più che altro il fatto che la squadra, come l'anno scorso, sia perfettamente allineata a livello di equilibri nelle tipologie di giocatori che abbiamo. Questo è quello che mi preoccupa, perché l'anno scorso Sarri, ok, tutti i difetti del mondo, ma che la rosa non fosse perfetta o quasi perfetta è abbastanza evidente. E lo aveva capito anche lui abbastanza in fretta, no? Però adesso non riapriamo la pagina su Sarri. Noto, scriveva oggi la Gazzetta, secondo me centrando anche il punto che tutti ci concentriamo sul numero 9 che manca. Poi la prima cosa che dovrà fare Pirlo sarà evitare che la Juve prenda altri 43 gol in una stagione, perché lo scudetto con 43 gol presi lo vinci una volta, difficilmente riesci a ripeterti. Secondo me l'incognita principale, può sembrare un paradosso, è la Juve, che è fortissima ma che non è come poteva essere 4-5 anni fa, una squadra nettamente superiore a tutte le altre. Ha delle situazioni di mercato da risolvere, ha degli incastri di mercato negli ultimi 15-16 mesi che non hanno funzionato del tutto, quindi qualche incognita c'è. Sulla leadership di Pirlo, ma Alessandro lo sa bene perché insomma è uomo d'azienda ed è una componente, quella aziendale, cioè quella della leadership, del carisma personale, che insomma si assomiglia molto. Il carisma è quello, no? Poi è chiaro che un po' di esperienza di campo da allenatore nello specifico gli potrebbe mancare, però conta sempre di più questo elemento di carisma individuale. Pirlo da questo punto di vista non mi mette nessuna paura, cioè secondo me ce l'ha ampiamente. In più ci sono molti luoghi comuni su Pirlo, per esempio una cosa che non si sa, ma che per esempio basta parlare con qualche suo ex compagno del Milan o della Juve, ti racconta che Pirlo sembra un po' un orso, un uomo ombroso, in realtà è una delle persone più simpatiche, divertente, cioè è abbastanza, ci sono un po' di equivoci secondo me sulla figura di Pirlo in assoluto, però detto questo, tornando al discorso più strettamente tecnico, sono d'accordo con Ale, cioè secondo me l'interrogativo vero è sulla rosa, perché la rosa è molto forte sicuramente, insomma ci sono ancora risorse, si sta muovendo sul mercato, però insomma da qui al 5 ottobre deve essere fatto un buon lavoro. Sì, questo non è il mercato giusto per programmare, vale per la Juventus e vale per tutti, lo abbiamo capito e lo stiamo raccontando, ne parlavamo pochi minuti fa ad esempio per l'Inter e la sua rosa extra large con dentro giocatori anche forti, nel caso Eriksen, ma poco funzionali a tutto il progetto. Allora, fammi salutare Alessandro Allara, ciao Alessandro, grazie. Ciao a tutti, ciao. Buone partite, tutte e due, Internazionale Roma e alle ore 20:45 Juventus-Sampdoria, 0-0 ancora tra Sassuolo e Cagliari, siamo appena andato via il primo quarto d'ora di questa partita, 0-0 anche tra Chelsea e Liverpool, con il Chelsea però che negli ultimi minuti del primo tempo è rimasto in 10 per l'espulsione di Christensen. Ci fermiamo, torniamo subito. Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... Tutti convocati. Penso che abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 occasioni per fare gol, e se facciamo gol la partita cambia, ma non abbiamo fatto. Dopo nel secondo tempo, con un gioco lungo di Hellas Verona, abbiamo sbagliato nella seconda palla, ma dopo nel finale della partita abbiamo finito e abbiamo creato altre occasioni per fare gol. Penso che il primo tempo, se facciamo, puoi cambiare tutto. E siete d'accordo, facciamo anche le pagelle dopo questo primo giorno di scuola della Roma. Abbiamo convocato anche Massimo Caputi. Ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio. Pure lui al tennis, dai, fatemi rosicare tutti, dove sei? No, io purtroppo, per fortuna sono in redazione, guarda. Ah, va bene. Si combatte in prima linea. Allora, partiamo da Pier, che l'ha raccontata ieri questa partita tra Verona e Roma. Allora, io credo che si debba partire da Dzeko. Scusate se inverto l'ordine, nel senso che io non ho capito, onestamente, non ho capito il fatto di portare un giocatore e poi di non usarlo per niente. È chiaro che il full monty, no? L'obiettivo completo, il pacchetto completo che la Roma sognava ieri era quello di vincere la partita senza rischiare Dzeko nemmeno per un minuto, perché questa sarebbe stata sicuramente la situazione migliore per evitare rischi, visto il probabilissimo trasferimento. Però poi, quando la partita non si sblocca, io mi aspettavo di vederlo in campo per 20-25 minuti, se no non aveva veramente senso neanche portarlo a Verona. Questa cosa francamente non l'ho capita. Ieri secondo me è mancato, ovviamente manca la controprova, però ieri abbiamo visto, ha ragione Fonseca, abbiamo visto una Roma capace di dialogare bene con due o tre giocatori che sono di livello superiore. Questa squadra, non va dimenticato, ma anche Zaniolo, ma dal punto di vista delle risorse, lì sulla parte offensiva del centrocampo, a trequartisti la Roma sta messa benissimo, perché Mkhitaryan è un giocatore importante, perché sicuramente l'arrivo di Pedro aumenta molto il tasso tecnico, perché Pellegrini è un però giocatore mancava che... quello là. Però mancava quello là, e a un certo punto la partita, cioè ieri secondo me era veramente abbastanza evidente. Ripeto, poi manca la controprova, magari con l'attaccante pesante poi perdeva, e poteva anche perdere, perché comunque l'ha due o tre occasioni importantissime, certo, che l'ha avute. Però insomma, questa nota non l'ho capita. Ma quindi Massimo, su chi mettiamo, sul conto di chi mettiamo i due punti persi? Ma guarda, adesso mi veniva da ridere, perché c'era la sigla di un programma che conducevo alcuni anni fa a Tele Monte Carlo, Goleada, che diceva: tanto c'ha ragione chi fa gol, nel senso che poi alla fine sì, primo tempo, qualità dei trequartisti, però se non segni tutte le chiacchiere stanno a zero. E sulla questione di Dzeko e sulla questione dell'attaccante, cioè la Roma ieri ha mostrato due enormi problemi: quello di non avere l'attaccante principale e titolare, pur avendolo in panchina, ma neanche la riserva, perché poi anche questa è una riflessione che va fatta. Cioè, in fin dei conti, la Roma è arrivata a questa prima di campionato totalmente impreparata e totalmente incompleta, perché se tu avessi avuto un Kalinic, uno Scamacca, cioè chi volete voi, o anche addirittura il centravanti della primavera, certo, il punto è quello: ti serve un portiere, ti serve un centravanti, no? È normale, cioè non c'era Dzeko, ha ragione Pierluigi, è paradossale tutto questo, però non solo non c'era Dzeko, non c'era neanche quello che arriverà dopo, quindi ti sei presentato, esatto, consegnandoti al Verona, perché la possibilità di fare gol non ne avevi moltissimo. Manca la controprova, per carità, cioè, ha ragione Fonseca, la Roma poteva fare gol nel primo tempo, sì. Sicuramente sì, perché sia Mkhitaryan che Pedro hanno avuto delle occasioni, Spinazzola ha fatto una partita clamorosa, però Pierluigi, no. Cioè, è vero, la Roma poteva, però guarda che anche il Verona poteva, e il Verona sta peggio della Roma, e allora, cioè, voglio dire, possiamo trovare mille giustificazioni, e ci sono, però la Roma anche in quelle condizioni poteva e doveva, a mio avviso, battere quel Verona, che aveva lo spirito, ma sicuramente un valore tecnico inferiore a un anno fa, e soprattutto ha evidenziato che è iniziato un torneo assolutamente impreparata anche in quelle che sono le eventuali sostituti. Massimo, sono d'accordo sul fatto che Dzeko si possa vendere, perché secondo me, razionalmente parlando, ringiovanire di 8 anni il tuo attaccante principale, prendi un giocatore comunque, ieri ne abbiamo parlato con Guidolini e con Balzaretti, io sono d'accordo con loro, cioè un giocatore che ha delle caratteristiche che sono molto per certi versi potrebbero essere addirittura migliori per i giocatori che giocheranno con lui, perché è un giocatore che ti può dare una grande profondità, ti può allungare la squadra, quindi cioè, secondo me è una scelta che ci sta tutta. Però poi se ti porti Dzeko, ma cioè, che te lo porti a fare per stare 90 minuti in panchina? Io questa cosa non l'ho capita. C'è anche un ulteriore paradosso secondo me in questa vicenda, almeno a ora, e cioè che ci sono tre squadre, Juventus, Roma e Napoli, per due giocatori. La Roma teoricamente partiva da una posizione di forza, cioè aveva il centravanti, la Juve no e lo vuole, e il Napoli ce n'è uno sul groppone. Adesso, per come si sono incartate le ultime vicende, è la Roma che c'ha il cerino in mano. Perché dici che Dzeko comunque deve andare a questo punto? Dzeko va via, cioè Dzeko non è più, cioè mentalmente, per una serie di motivi, almeno da quello che ci risulta, cioè è un giocatore che è già Torino, esatto, e quindi è questo il vero nodo da sciogliere in questo momento. Infatti diciamo la Roma probabilmente sta pensando anche a un'alternativa, perché se non si sblocca la situazione Milik-Napoli la Roma veramente rischia di rimanere imbrogliata. E non dimentichiamoci che il calendario poi si è divertito, certo. E domenica c'è Roma-Juve, ma scherzi, immaginati con chi gioca Dzeko e tutto quello che significa. Grazie Massimo. Ciao, Massimo. Grazie a voi. Ciao. Grazie Massimo. Ciao, Caputi, ciao. Capo dello sport del Messaggero. 800 24 00 24, Roberto da Milano. Roberto, grazie per avermi convocato. Vai, grazie a te e i ospiti. No, niente, riguardo sul Milan, l'affare ora dico di Chiesa e poi di Milenkovic, cioè io punterei più alto su Milenkovic e se ne parla bene, dando fiducia naturalmente a questo Lorenzo Colombo, che come dice Pioli, insomma, come dice riguardo Ibrahimovic, a Chiesa sì. È una spesa, insomma, poi se si viene anche Chiesa ben venga, però... Guarda, io credo, Roberto, che Chiesa a quelle cifre non sia un tema attuale per il Milan. Infatti. Che la Fiorentina poi legittimamente voglia capire quanto può guadagnare dalla cessione del suo gioiello, che il Milan farà certamente un difensore centrale, perché poi vanno bene i giovani, vale anche il discorso per Gabbia, ma serve anche qualche giocatore fatto e finito. E sul vice Ibra, secondo me, Colombo, Rebic e Leao non bastano. Noi auguriamo tutto il bene possibile a Ibrahimovic in questa stagione, però poi le cose succedono e insomma l'idea di partire senza avere un backup di un numero 9 strutturato in quella maniera, anche se non è replicabile da una riserva, il peso di Ibrahimovic dentro il Milan secondo me significa esporsi a qualche rischio. Allora Pier, ci dobbiamo fermare qui, appuntamento a domani dopo il GR 14. Ciao, domani. Okay. Ciao Pierluigi Pardo. Allora, aggiornamento anche di Sassuolo Cagliari, 25esimo del primo tempo finito in questo istante, 0-0 il parziale, continua a essere una partita discreta con prevalenza del Sassuolo sul Cagliari e De Zerbi che ha semplicemente riannodato il filo del suo gioco dalla fine della scorsa stagione, perché è anche un bel Sassuolo vedere in questa prima mezz'ora di gioco. Sicuramente più rodato del Cagliari, che tra l'altro aspetta ancora le sue pedine più importanti. Ci fermiamo, c'è una breve pausa, poi rientriamo con Varanatomi. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. VAR Anatomy con Luca Marelli. Eccoci al tradizionale appuntamento con Luca Marelli. Ciao Luca. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. A noi non piace citare noi stessi, però una settimana fa ve l'avevamo detto. Guardate che il tema di questo inizio di stagione sarà basta troppi rigori, basta rigorini. Attenzione, perché l'anno scorso si è andati oltre a livello statistico, numerico, e quest'anno bisognerà avvicinarsi di nuovo a parametri, chiamiamoli, europei. Anche se tutto questo poi si porta dietro una serie di riflessioni, e secondo me anche di riflessioni critiche che sono legittime. Quello che abbiamo letto negli ultimi due giorni proveniente dal ritiro degli arbitri, carissimo Luca, non ha fatto altro che confermare quello che ci avevi raccontato settimana scorsa. Sì, dai, diciamo che abbiamo utilizzato un po' di logica, soprattutto pensando alla discrasia evidente che c'è tra il nostro campionato e tutti gli altri. Cioè, se fossero stati 3, 4, 5 eccezioni, probabilmente non avremmo fatto certi discorsi, però avendo visto i dati completamente fuori norma del nostro campionato, era abbastanza semplice comunque ipotizzare che Rizzoli sarebbe intervenuto molto sui calci di rigore. Chiaro, siamo all'inizio, la prima giornata non è neanche molto indicativa, perché è una giornata che fino adesso ha previsto 4 partite e mezza, però abbiamo visto anche qualche episodio che l'anno scorso probabilmente sarebbe stato sanzionato col calcio di rigore, soprattutto nella seconda partita della giornata a Genova. È stato un episodio nel primo tempo con uno di quelli che abbiamo definito da circa 2 anni contattini. Airoldi non si è smosso, non c'è stato neanche il check, o forse il check c'è stato ma velocissimo, ma si è andati avanti tranquillamente. Bene così, perché l'asticella sui calci di rigore, soprattutto i contatti, deve essere alzata di parecchio. C'è stato anche un contatto tra Pezzella e Lozano all'inizio di Parma-Napoli sullo 0-0, arbitro Mariani e Vara Aureliano. Contatto alto, diciamo una spallata che in realtà più che spallata era una mezza spinta, per dirla tutta, che è stato totalmente ignorato. L'anno scorso secondo me qualche occhiata in più ci sarebbe stata. Può darsi, però a me va bene, a me piace così. A me piace così perché il concetto fondamentale europei sostanzialmente. Sì, ma soprattutto un concetto che secondo me ha ben espresso Rizzoli proprio nelle voci, nell'intervista che ha rilasciato alla Gazzetta, in cui ha detto: dobbiamo ricordarci che in area di rigore non ogni rigore, il contatto deve essere qualcosa di più per portare alla massima sanzione. Adesso perfezioniamo il collegamento con Luca Marelli, c'è qualche problema di linea. Chiaramente il rigore, per essere rigore, deve essere una cosa seria, ma questo noi lo diciamo da quando abbiamo iniziato Var Anatomy, e in assoluto è quello che pensiamo. Attenzione però al tema dell'uniformità. Certo Giovanni, ma bisogna rispettare lo spirito del gioco, l'abbiamo detto molte volte con Luca, bisogna rispettare lo spirito del gioco, allinearsi a parametri europei che sono diversi da quelli italiani, e avere certamente l'uniformità di giudizio, che era la ricerca del sacro graal quando parli di tematiche arbitrali, no Luca? Assolutamente, ma io vorrei sottolineare anche un altro aspetto. Naturalmente io avevo dato un consiglio spassionato e sicuramente Rizzoli non mi ha ascoltato, però è anche vero che in queste prime 7 partite sono stati designati arbitri che hanno tendenza a fischiare pochissimi rigori, e secondo me questo è positivo, perché bisogna dare da subito una linea. Se già da oggi e da domani vedremo comunque una asticella che si alza, anche i giocatori stessi ne trarranno tra virgolette benefici, perché sapranno che non si entrerà più in area di rigore per cercare un contatto, ma si entrerà in area di rigore per cercare di creare un'occasione da rete. Poi però attenzione che settimana prossima c'è Roma-Juventus, con tutto quello che si porta dietro storicamente questa partita, soprattutto a inizio stagione, no Luca? Assolutamente, ma io sono convintissimo che in Roma Juventus vedremo subito un big, perché in ogni caso la si vorrà blindare, perché è la partita più importante delle prime 2 giornate. Non escludo che venga designato Orsato, non lo escludo affatto, Orsato oppure Maresca oppure Guida, sono questi gli arbitri che girano. Non cambierà tantissimo per quanto riguarda i big match relativamente alle designazioni, cambierà parecchio, l'abbiamo già visto anche in questa prima giornata, nelle rotazioni, perché non succedeva da tempo che venissero designati ben 2 arbitri della vecchia, chiamiamola così, per la prima giornata. E soprattutto è simpatico, diciamo così, sottolineare il fatto che non sono stati designati i primi 2 della graduatoria, che come sappiamo sono Sacchi e Fornò, che sono stati sulla carta promossi, ma Airoldi e Marinelli, che in realtà sono arrivati dietro. Questo è un bel segnale anche del fatto che Rizzoli ha intenzione di insistere molto su questi giovani. Se mi permettete, su Marinelli 1 euro ce lo scommetto, perché è un ragazzo che, a mio parere, se trova continuità, ha un talento pazzesco. Quindi lo seguiremo, lo seguiremo con particolare attenzione nei prossimi mesi. Grazie Luca. Ciao Luca, a presto. Grazie a voi, buon lavoro. Ciao. Grazie Luca Marelli. Var Anatomy torna settimana prossima alla stessa ora. 0-0 tra Sassuolo e Cagliari, 35esimo del primo tempo. Paolo da Verona. Paolo. Niente, volevo parlare dell'Inter, visto che prima parlavate dell'Inter, e alla luce anche del fatto che quest'anno è morto il più grande giocatore a livello tecnico dell'Inter, che era Mario Corso. La mia domanda è: c'è un giocatore che può avvicinarsi, può avere quelle qualità lì, che può fare gli assist che faceva Mario Corso, oppure bisognerà ancora aspettare? L'Inter di oggi no, ma io credo in assoluto non ci sia un giocatore come Corso. Ci sono altri straordinari campioni in giro per il mondo, anche magari con una cifra tecnica superiore a quella di Corso, però quel calcio lì, quel modo lì, insomma, Corso è stato straordinario anche legato al contesto, all'epoca che ha vissuto. Se sarebbe giocato con Conte, cosa mi dici? No, io non credo. Non credo nemmeno io, no, perché mi veniva in mente, per una strana situazione, immagini proprio Eriksen, no? Che comunque al colpo, all'assist alla Corso, però vabbè, storie, paragoni epocali sono sempre divertenti ma molto fuorvianti. Parliamo del Tour de France. Tadej Pogačar alla Place des Belles-Filles, ribalta tutto, vince il Tour de France, vince la crono conclusiva, questo ragazzo di 21 anni dalla Slovenia, il futuro di questo sport. Grandissimo, grandissimo, non ci sono parole, non ci sono parole per questo ragazzo, un fenomeno. Tour de France che in realtà non è ancora finito, perché i ciclisti se la stanno veramente prendendo comoda oggi negli ultimi 122 chilometri della passerella verso Parigi. È stato un tour evidentemente faticoso, massacrante, e quindi oggi si va veramente pianissimo, ma non è un problema, vedremo chi vincerà la volata, se volata sarà. Pier Augusto Stagi, ciao. Ciao. Ciao, buona serata a tutti. Allora, parliamo di quello che abbiamo visto ieri. Invece, assolutamente sorprendente, perché poi di fatto ha maturato negli ultimi 6 chilometri, quelli in salita dell'ultima crono di questo Tour de France. Abbiamo visto scomodare tanti paragoni anche oggi sui giornali rispetto ad altre imprese della storia del ciclismo. Tu a chi la metti vicina? Guarda, non lo metto vicino a nessuno, perché è stata una, veramente una grandissima impresa, compiuta da un ragazzo talentuoso, giovanissimo. Ricordiamoci che veramente domani fa 22 anni. L'anno scorso ha corso il suo primo grande giro, la Vuelta, è arrivato terzo, vincendosi 3 tappe e la maglia bianca, e non è stato un caso. E ha ribadito il suo primo Tour de France. Suo primo tour, 3 tappe, la maglia gialla, la maglia bianca di miglior giovane, la maglia Pois di miglior scalatore. Cioè, ha fatto filotto. Deve allargare l'armadio di casa. Ha vinto, sì, e non solo l'armadio, ma anche... Tra poi gli serve anche la mensola del caminetto. Esatto, se... la stanza per mettere i trofei, perché questo ragazzo che... è incredibile di testa. Io credo che ieri noi continuiamo a parlare di muscoli, telemetria, computerini, Chris Froome aggrappato al manubrio che guarda costantemente i watt. Ecco, questo corridore invece ha dato una svolta, ha spazzato via tutto, anche delle credenze, dove sostanzialmente dai tempi di Lance Armstrong doveva avere lo squadrone, il grande leader sorretto da dei potenziali vincitori di grandi giri. E la stessa cosa l'ha fatta la Sky per diversi anni, l'ha fatto con Chris Froome, l'ha fatto con Geraint Thomas, l'ha fatto l'anno scorso con Bernal, ma è andato a prendere, per dire, il vincitore del Giro d'Italia Carapaz, il vincitore del Giro giovane Sivakov, giovanissimo, con la stessa età di Pogacar, che quindi potenzialmente uno che può arrivare sul podio. E la stessa cosa l'ha fatta l'olandese Jumbo, la formazione di Roglic, che gli ha costruito un dream team. Bene, Pogacar si è trovato praticamente da solo, con tutto il rispetto per la squadra, perché ha perso Aru dopo una settimana, è andato a casa Davide Formolo, che sarebbe stato fondamentale nei tratti di pianura per i ventagli, dove tra l'altro Pogacar ha perso 1:20 nella tappa dei ventagli. E poi ha fatto da solo, ha fatto assolutamente da solo. Me ne ricordo un altro che faceva così. Dillo. Me ne ricordo un altro che faceva così, che andava bene con la squadra dei suoi amici romagnoli, è stato cercato a lungo da grandi squadre. È lì che volevo arrivare. È lì che volevo... Bravo Carlo, hai seguito quei giri e stavi... Andrea Agostini, che tu conosci, compagno di classe di Marco Pantani, questo era il soggetto, il grande pelato, ha vissuto nel 98 il trionfo del pirata da tifoso, appunto, da compagno di scuola. Nel 99 è diventato poi l'addetto stampa, oggi è un addetto stampa di chiara fama e guarda caso è nella UAE Emirates di Tadej Pogačar. Io gli ho fatto questa mattina una domanda, ho detto: Andrea, ma due ragazzi totalmente diversi, distanti, uniti comunque da questo filo giallo, cosa li accomuna? E lui mi ha detto: la follia di provarci. Marco Pantani gli girava lo schiribizzo di scattare a 40 km, faceva. Lui lo faceva. E così l'ho fatta Tadej Pogačar. Lui, un altro episodio, prima vi ho ricordato che Taddeo ha avuto un momento di difficoltà nella tappa del vento, quella dove la De Koenig Quickstep di Alain Philippe ha praticamente sbrindellato il gruppo. Roglic è stato bravo con la sua Visma fortissima a tenerlo davanti. Taddeo, che aveva una squadra nettamente più debole e meno attrezzata, è rimasto dietro e paga 1:20. Mi raccontava Andrea questa mattina e mi diceva: ma sai, lui alla sera è arrivato sereno, tranquillo, e mentre era al buffet a prendersi da mangiare ha detto: comunque io domani ci provo. E i direttori sportivi a dirgli: no Taddeo, non esagerare, vai che tu è ancora molto lungo, stai tranquillo. Beh, lui il giorno dopo ha attaccato e ha guadagnato 42 secondi. Sì, si è ripreso un questo pezzo di quel gap lì. Questo è il corridore di talento che va fuori dagli schemi, che non gli interessa, e la creatività, ma anche nel calcio, ragazzi. Voi ma difatti lo diciamo sottovoce, ma questa vittoria è una bella notizia per tutti, perché noi c'eravamo anche un po' annoiati, se ricordi ne abbiamo parlato qualche giorno fa, del ciclismo e di un tour praticamente soffocato dal dominio agonisticamente prepotente di una singola squadra. L'idea che si possa vincere anche correndo, oltre che di grande talento e di grande forza, anche con la fantasia e con un po' di sfrontatezza, è un'ottima notizia in assoluto, no? Pier Augusto? È assolutamente così, è una boccata d'ossigeno, ci voleva, e speriamo che non si rovini, che il ragazzo resti appunto ragazzo, che abbia voglia di divertirsi, perché se lui si diverte, come d'altra parte abbiamo visto in questo tour, ci sono stati diversi ragazzi di 20 anni che si sono messi assolutamente in mostra, hanno usato, hanno provato a rompere determinati schemi, alla faccia di tutti i tatticismi esasperati, bisogna fare così, aspettiamo quel punto lì, là facciamo così. Certo è che è chiaro, non è che se vogliamo fare solo i passatisti, nella vita di tutti i giorni si va avanti, la tecnologia serve e ci serve per migliorare, ma devono essere semplicemente degli strumenti. Se poi invece noi cerchiamo in tutti i modi di imbrigliare lo sport, in questo caso il ciclismo, in un format, allora lì è la noia. Noi gli facciamo, noi gli rendiamo un buon servizio. Grazie Pier Augusto. Ciao Pier. Grazie a voi. Grazie Pier Augusto. Poi per fortuna arriva Taddeo Pogačar e ci solleva il morale. Siamo al traffico, 0-0 tra Sassuolo e Cagliari, 44esimo del primo tempo. Vi do anche un aggiornamento sulla finale di Supercoppa di basket. Siamo sul finale del secondo quarto, mancano 2 minuti al riposo lungo. Milano è in vantaggio 41-29 sulla Virtus Bologna. Qualche istante torniamo e apriamo la pagina del tennis. Siete tutti convocati anche sui social. Anche sui social. Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Tutti convocati. Apriamo la pagina dedicata al tennis, andiamo al Foro Italico da Vincenzo Martucci. Ciao Vincenzo. Buongiorno. Ciao Vincenzo. Allora, diamo intanto i risultati di questa prima parte di giornata dedicata alle semifinali. Abbiamo il nome di due finalisti, quello maschile è Djokovic che ha battuto in 2 set il norvegese Ruud, quello femminile è la Halep che ha battuto in 3 set la Muguruza. Poi dobbiamo seguire tra un quarto d'ora circa Schwartzman-Shapovalov tra gli uomini. Pliskova, Vondrusova tra le donne per avere il nome degli altri due finalisti. Come hai visto Djokovic, Vincenzo? Come al solito in questo torneo, abbastanza nervoso, un po' lento, molto falloso, soprattutto di rovescio, stranamente, che si salva col servizio, l'esperienza, la grinta, la capacità di strappare, di alzare il livello in qualche momento, e poi viene a capo senza alla fine dover dire granché, perché quando vinci 2-7-0 uno pensa, beh, insomma, abbastanza bene, invece no, invece ha sofferto, invece anche ha trovato lo stimolo importante dagli spettatori, dalla gente che gli ha dato un po' di carica. Sì, i 1000 fortunati, e poi ce ne saranno altri 1000 per la sessione serale. Dobbiamo sorprenderci della caduta di Nadal? Certamente sì. E il primo a sorprendersi, secondo me, è stato proprio Nadal, e il secondo è il suo avversario, Schwartzman. Le condizioni di gioco erano molto particolari, perché la sera c'è molta umidità, come sempre qui a Roma, e il campo è abbastanza duro, per cui a un certo punto si era venuto a creare un campo quasi da cemento, molto veloce, con ribassi molto bassi, e un giocatore contro Schwarzman, uno dei più piccolini del circuito, ma 1,70 a malapena, insomma giocava un po' molto di rimbalzo, molto in fretta, mentre sappiamo che Rafa è abituato con questo top molto accentuato, soprattutto di dritto, a sbattere fuori dal campo l'avversario, invece la palla non gli faceva il suo kick, e chiaramente questo avvantaggiava il suo avversario, che ha giocato una grandissima partita, andando alto il ritmo, sbagliando pochissimo, perché Rafa ha giocato poco bene, poco male, e soprattutto non ha riferimenti, cioè questo lungo lockdown gli ha tolto la possibilità di giocare partite, quindi di sapere come sta. Sì, certo, ma bisogna, insomma, il momento e l'anno è particolare. Sappiamo che Federer è ai box, gli US Open li abbiamo visti, abbiamo visto Nadal fuori da casa sua, cioè da Roma. Potremmo anche dire che gli anni passano per tutti, però non so se siamo ancora, vediamo Djokovic, come ci hai detto tu, non in grandissime condizioni, non so nemmeno se a questo punto è il favorito della per una finale. Vediamo Shapovalov, Schwartzman, non so neanche se è favorito per questa finale, potrebbe anche non vincere qui a Roma. Potremmo dire che gli anni passano, ma magari aspettiamo un attimo, Vincenzo. Ma sì, gli anni passano per tutti, ma anche per i giovani, ma obiettivamente Djokovic rimane il favorito, perché malgrado tutto quello che è successo intorno a lui, malgrado la sua partecipazione negativa, il fatto appunto che non sia brillante, e soprattutto che stia pagando tutti gli errori precedenti, questa è stata un'annata molto dura per lui, ancora più che per gli altri, non dimentichiamo quello che ha combinato all'Adria Tour, quando praticamente era una manifestazione comunque la quale organizzava la storia della discoteca, i suoi colleghi si è torso nudo, eccetera. Poi c'è stata la storia del sindacato, che si è staccato un po' dall'ATP Tour, creando un sindacato nel sindacato, e poi non ultimo le discussioni di New York, la squalifica per aver tirato la pallata contro il giudice di linea. Tutto questo alla fine fa sì che lui si sia distratto un po'. Sì, mi sembra che nel complesso comunque sia il tennis, sia lo sport che sta vivendo peggio tra tutte queste cose, sta vivendo peggio questa situazione. Sembra lo sport che ha reagito in maniera più complicata alla situazione, per tutto quello che stiamo vedendo. Questa è una sensazione che ho io da fuori, insomma. Arrivate... È importante quello... Dai, scusate, chiudo con questa cosa del pubblico. Obiettivamente non sta a me, non sta a nessuno che non sia deputato a farlo, che abbia le capacità di capire il momento difficilissimo che stiamo vivendo, e che ci faccia vivere in sicurezza, perché la cosa principale rimane la salute di noi e delle altre persone. Tutto questo però bisogna riconoscere, per esempio, al presidente Gaetti della Federazione Tennis, comunque di aver difeso il suo sport, di aver difeso il diritto degli spettatori a vedere una manifestazione. Il fatto che lui abbia insistito tanto col presidente della Regione Lazio perché comunque mille spettatori fossero presenti, ha avuto la soddisfazione del ministro Spadafora, e alla fine, come stiamo vedendo anche nel calcio, comunque uno spiraglio si è aperto. Quindi, in qualche modo, quantomeno come buone intenzioni, con delle spese, comunque dimostra che si può, volendo si può, poi sta a noi, ecco. Certo, grazie Vincenzo. Ciao, arrivederci a voi. Ciao, grazie dunque a Vincenzo Martucci, in attesa di conoscere i nomi degli altri due finalisti, uno maschile e uno femminile, degli internazionali d'Italia. Siamo arrivati al riposo lungo, all'intervallo lungo, nella finale di Supercoppa ospitata dalla Segafredo Arena di Bologna. L'Olimpia Milano è in vantaggio, più 12 sulla Virtus Bologna, 45-33. Olimpia Milano che di fatto sta comandando dalla prima palla 2 di questa partita, che assegna il primo trofeo della stagione. È finito il primo tempo a Reggio Emilia, 0-0 tra Sassuolo e Cagliari, partita però abbastanza godibile. Stanno giocando a Londra Chelsea e Liverpool, parziale 2-0 per il Liverpool, che ricordate è rimasto in 11 contro 10 nel finale del primo tempo per l'espulsione di Christiansen del Chelsea. Nella ripresa, in 4 minuti, doppietta di Sadio Mané, 50esimo e 54esimo, e dunque campione d'Inghilterra, che in questo momento stanno vincendo 2-0 in casa del Chelsea. In serata 20:45 vi racconteremo nel corso dei notiziari il debutto della Juventus di Andrea Pirlo contro la Sampdoria. Grazie Carlo. Grazie a te Giovanni. Appuntamento con te domani dopo il GR delle 14. Io ringrazio Edoardo Lavezzari in redazione, Pietro Lacorte e Gianmarco Ferronato che si sono alternati in regia. L'appuntamento con tutti i convocati weekend è domenica prossima alle 17. Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Ciao, Radio 24. Saluti! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it.